galassie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sarà interrogato lunedì l'uomo che ha compiuto la strage al tribunale. Il presidente della Corte d'Appello dice: non diventeremo un fortino, poi si rivolge agli altri magistrati. Non è il momento delle rivendicazioni. Al momento nessun rilievo penale sulla sicurezza, dicono gli inquirenti. Qualcuno mette sotto accusa il sistema affidato ai privati. Rimandato il Consiglio dei Ministri sul DEF, il documento di economia e finanza, sarà stasera. Intanto Del Rio annuncia via libera 137 piccole opere richieste dai comuni, stanziati 200 milioni. Manette per tangenti, l'ex sindaco e l'intera giunta di un comune pugliese. Intanto nuove indagini sulla corruzione in Campania, dopo l'arresto del sindaco di Ischia, indagati anche il sindaco di Ercolano e il suo vice. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il nostro sito internet www.radio24.it e se volete durante la diretta il numero di sms il 349-238-6666. In apertura torniamo al fatto di cronaca di ieri, la strage al Tribunale di Milano, mentre si attende un nuovo interrogatorio per Claudio Giardiello, l'uomo che ieri è entrato nel palazzo e ha ucciso tre persone per poi fuggire ed essere catturato a Vimercate. Resta alta la discussione sulla sicurezza, soprattutto nei tribunali. Iniziamo però dalla cronaca vera e propria e anche dall'assemblea di questa mattina di magistrati e avvocati proprio nel tribunale. A seguire tutto questo c'era la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. C'era così tanta gente che non solo non si riusciva ad entrare qui nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano, c'era così tanta gente che anche l'enorme salone dove mi trovo in questo momento era completamente gremito. Tutta la cittadella della giustizia milanese si è fermata a mezz'ora e ha sentito il bisogno di ritrovarsi per commemorare le tre vittime della strage di ieri, vittime di una sicurezza con troppe falle, ma vittime anche delle troppe tensioni e della troppa rabbia, apre il presidente dell'ANM Rodolfo Sabelli intorno ai temi della giustizia. Se le parole del capo dello Stato di ieri hanno dato conforto a chi indossa la toga, il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini torna a dar voce alla necessità di non lasciare soli, ha detto, i magistrati. Ma in quest'aula dedicata ad altri due giudici uccisi negli anni di piombo c'è un dolore composto e c'è uno slancio a ripartire sul viso di tutti e rappresentato soprattutto dalle parole commosse della mamma di Loris Appiani, il giovane avvocato ucciso mentre deponeva come teste in aula. È il dolore sobrio della Milano civile, evocata dal presidente della Corte d'Appello Giuseppe Canzio, la Milano che sa conservare la memoria e ripartire dal senso dello Stato, con una riflessione sulla sicurezza, ha ribadito, ma anche con un avvertimento davanti al rischio che la crisi dell'economia non diventi crisi della ragione. Recuperare la fiducia è la prima sfida indicata dalla più alta toga milanese, che a tutti poi ricorda come il discredito alla magistratura rischi di travolgere l'intero Stato, e poi alle toghe innanzitutto ricorda come non è questo il momento di rivendicazioni sindacali, e sollecita rispetto e misura nei gesti e nelle parole, perché il mondo della giustizia, scandito tra gli applausi Canzio, vuole restare aperto al mondo esterno. Sentiamolo. Io posso dire a nome di tutti i magistrati milanesi: noi non ci sentiamo una fortezza assediata, non vogliamo alzare ponti levatori, vogliamo continuare a svolgere la nostra professione e la giurisdizione aperti alla società, aperti alla cultura, aperti ai cittadini, aperti agli studenti che entrano in queste aule tutti i giorni per verificare che cosa si fa in queste aule, come funziona. E quindi, se vogliamo mantenere, come proprio della Milano civile, questo senso dell'apertura all'esterno, occorre che riflettiamo sul nostro modo di essere, sul ruolo, sulla funzione, sulla nostra anima, come cioè non perdere l'anima dei giudici. Dico subito: non è tempo né spazio di rivendicazioni corporative o sindacali. Così dunque Canzio, Raffaella. Dal lato invece più puramente delle indagini, quali sono gli aggiornamenti? C'è stata una riunione questa mattina nella stanza del procuratore aggiunto Alberto Nobili e vedremo cosa è venuto fuori. Tra Milano e Brescia, che coordina le inchieste, si stanno mettendo a punto una serie di tasselli che ancora mancano. Giardiello verrà interrogato lunedì, perché ieri davanti ai magistrati si è avvalso della facoltà di non rispondere, dopo però aver già detto alle forze dell'ordine, quando è stato fermato, che aveva fatto questa strage per vendicarsi di chi aveva voluto il suo fallimento, il fallimento della sua società. Emergono più che altro ancora dei racconti che faranno parte di questa indagine, come quello che ho potuto io stessa ricostruire del PM, che è stato protagonista dell'udienza di ieri, dottor Luigi Orsi, che ha ricordato come soltanto nel momento in cui è entrato nella camera di consiglio si è sentito al sicuro da quegli spari, come tutto sia durato 30 o 40 secondi e come un giovane avvocato sia rimasto a terra fingendosi forse morto, e forse anche questa è stata la ragione della sua salvezza. Ha raccontato di come l'imputato sedesse all'ultimo posto e che ha cominciato a sparare dopo una discussione con il suo avvocato, a cui contestava delle domande fatte alla precedente testa, un ex commercialista. Quindi tutti i tasselli che contribuiscono a ricostruire queste fasi prima della sparatoria, ma soprattutto, come ricordavi, è intorno alla falla della sicurezza che in questo momento ci si sta concentrando. Grazie Raffaella Calandra, ed è proprio alla falla della sicurezza che è dedicata l'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi. Il Palazzo di Giustizia di Milano è una sorta di cittadella dove ogni giorno, specie al mattino, si concentra un'attività febbrile fatta di udienze, di processi civili e penali, di mero lavoro amministrativo giudiziario, di istruzione delle indagini, di corsi e ricorsi, di investigazione e di indagine. Da quelle parti il flusso di persone che oltrepassa i varchi della sicurezza è continuo e costante da lunedì a venerdì, con punte di presenze notevoli in occasione di grandi processi. È un fiume di magistrati, giudici, testi, imputati, avvocati, cancellieri. Il sistema di sicurezza, testato negli anni del terrorismo e delle stragi mafiose, ha tenuto sempre bene, fino a ieri, fino a quando tal Claudio Giardiello, 57 anni, immobiliarista accusato di bancarotta, è entrato ed uscito dal palazzo con un tesserino contraffatto, uccidendo 3 persone, ferendone 2 con 13 calibro 7.65. Giardiello si è dunque inserito in un buco nero della sicurezza, in un bug che si chiama esternalizzazione. I controlli ai varchi del palazzo non sono più eseguiti dall'arma dei carabinieri, dalle forze di polizia, bensì da guardie giurate che, per quanto preparate, non posseggono certamente la formazione di personale altamente specializzato sul piano teorico e con una esperienza sul campo decennale. Perché il problema non è tanto che il killer è entrato nella cittadella giudiziaria, ma che, dopo aver ucciso, ha camminato lungo i corridoi, è sceso dalle scalinate ed è uscito tranquillamente dagli stessi varchi, raggiungendovi i mercati. La sicurezza è troppo importante per l'incolumità delle persone per essere poi condizionata da tagli economici o, peggio ancora, da sottovalutazioni politiche. Sentiamo anche chi ha la responsabilità della sicurezza nei tribunali italiani. Il servizio. Il servizio di sicurezza interno nei palazzi di giustizia è affidato normalmente ai carabinieri ed è disposto sulla base di provvedimenti che competono al procuratore generale presso la Corte d'Appello. Il servizio di vigilanza esterno, invece, è di competenza dei comuni, spesso proprietari degli immobili, e possono appunto anche appaltarlo ai privati. Come spiega Maria Cristina Urbano, vicepresidente dell'Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari, non c'è un protocollo standard uguale per tutti. I requisiti sono definiti in sede di appalto. Bisogna quindi partire dal bando di gara. Il Comune di Milano, contattato, finora non ha fornito risposte sulla gara d'appalto, che è stata vinta da due società, la All System e la Secure Polis. La prima ha emesso un comunicato per spiegare che l'ingresso dal quale è entrato Giardiello non è presidiato e in carico a loro, ma di responsabilità di Secure Polis, i cui vertici non vogliono rilasciare per ora dichiarazioni. Quello che è accaduto a Milano era già avvenuto a Reggio Emilia. Era il 2007. Un uomo armato di pistola calibro 7.65 entrò nel Palazzo di Giustizia e fece 3 morti e 2 feriti. 8 anni dopo, la partita giudiziaria innescata dalla tragedia è tuttora aperta. Lo Stato, pur condannato in primo grado a risarcire con 600.000 euro i familiari delle vittime per mancata vigilanza, non ha ancora risarcito un euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E cambiamo argomento. Salta la discussione in Consiglio dei Ministri sul documento di economia e finanza, tutto rimandato alle 20. Intanto però il neo ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio ha incontrato i giornalisti per parlare di cosa? Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Per parlare naturalmente del rinvio di 12 ore di questo Consiglio dei Ministri, ma Del Rio ha rassicurato, non c'è nessun problema, è solo un supplemento di riflessione, ha spiegato il Ministro dei Trasporti, siamo sereni, tranquilli e d'accordo. Di fatto alla base ci sarebbe la richiesta del Premier ai vari ministeri di ripulire testi da doppioni e inesattezze in modo da coordinarli. L'obiettivo è comunque di inviare entro mezzanotte il DEF alla Commissione europea nella versione definitiva. Intanto questa mattina il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ha sbloccato 200 milioni di euro per 137 opere cantierabili che riguardano i comuni, interventi richiesti dai sindaci, con i quali tra l'altro sul DEF è tornato il sereno dopo le rassicurazioni di Renzi che non ci saranno nuovi tagli, e di questo ha parlato Graziano Del Rio. Sentiamo. Abbiamo fatto in modo di selezionare appaltabilità e cantierabilità, cioè chi era pronto a partire, da oggi può partire, anzi deve partire alla svelta, questo è il messaggio, quindi sblocchiamo questi 200 milioni di euro perché i 137 interventi cantierabili sono tutti accolti. Di testimone tra Del Rio e De Vincenti, il quale ha giurato come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. E da Roma è tutto. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Tra un attimo torneremo sui temi del DEF, e lo faremo con Gianni Trovati del Sole 24 Ore per fare un punto proprio sui tagli ai comuni. Andiamo all'estero. Emergenza tornado in parte degli Stati Uniti, soprattutto nel Midwest, dove le cattive condizioni climatiche potrebbero avere effetto su 95 milioni di persone residenti negli stati colpiti. Al momento i danni maggiori, alcuni feriti, si registrano in Iowa, Ohio e Illinois. In quest'ultimo anche una vittima. E ci spostiamo a Panama, dove Raul Castro e Barack Obama potrebbero incontrarsi. 10 aprile, per la prima volta Barack Obama e Raul Castro si incontrano, la data è storica e sancisce un nuovo e veloce riavvicinamento tra Cuba e gli Stati Uniti, iniziato dai due leader il 17 dicembre scorso. Nell'ambito del disgelo nei rapporti bilaterali avviato a dicembre, i riflettori rimangono dunque puntati proprio sui movimenti di Obama e Castro. I due capi si incontrano al vertice delle organizzazioni degli Stati Americani a Panama, dove è già in corso un colloquio tra il segretario di Stato americano John Kerry e il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, ovvero l'incontro di più alto livello diplomatico tra Washington e L'Avana da più di mezzo secolo. Il vertice di Panama è il primo al quale Cuba partecipa dal 1962 e che conterà sulla presenza di 35 leader mondiali. Molti temi al centro di questo incontro tanto atteso, primo tra tutti la riapertura delle rispettive ambasciate. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'altra notizia dall'estero arriva dalla Francia: il Front National finisce sotto accusa per finanziamento illecito e la stessa presidente del partito, Marine Le Pen, è sotto inchiesta insieme a due stretti collaboratori e dirigenti, David Rachlin e Nicolas Brahi, lo scrive il quotidiano Le Monde, e l'edizione sarà in edicola nel pomeriggio. Ci spostiamo a Cannes, restiamo in Francia, avrà un ruolo, si è preso oggi anche Isabella Rossellini nel Festival del Cinema di Cannes. Marta Cagnola, quale? Beh, sarà la presidente della giuria di Un Certain Regard, che è una delle sezioni della manifestazione, una sezione che c'è da qualche anno. Il primo anno è stato il 1998, l'Italia ha vinto con Marco Tullio Giordana con La meglio gioventù nel 2003, l'anno scorso ha vinto l'Argentina, quindi Isabella Rossellini, presidente della selezione della giuria di Un Certain Regard, e sarà anche a Cannes per partecipare a un omaggio a sua madre Ingrid Bergman, ovviamente con la proiezione del documentario Ingrid Bergman In Her Own Words di Stig Bjorkman. Potrebbero esserci, ecco, anche dei film italiani nella sezione. Io su questo volevo andare, Marta. Allora, nella sezione Un Certain Regard potrebbero esserci Marco Bellocchio con L'ultimo vampiro e Luca Guadagnino A Bigger Splash. Nella sezione principale le speranze sono su Mia madre di Nanni Moretti e La giovinezza di Paolo Sorrentino, mentre pare che non sia ancora pronto Il racconto dei racconti di Matteo Garrone. tra i papabili per la selezione ufficiale ci sono Gus Van Sant, Sean Penn, Woody Allen, Angelina Jolie, Robert Zemeckis, Steven Frears, Happy Chapong, Verasate Cool, Takeshi Kitano e Jacques Audiard. Dei nomini così. Quando sapremo la selezione? Allora, gli annunci ufficiali il 16 aprile, anche se il delegato generale Thierry Frémaux ha detto che sono ancora indietro perché dovevano vedere 1800 film, quindi probabilmente verrà ufficializzato un terzo della selezione ufficiale. Dopotutto il festival sarà dal 13 al 24 maggio, quindi c'è ancora tempo per aggiungere titoli. Grazie Marta Cagnola per questo aggiornamento e anche per queste voci che arrivano in merito alla selezione dei film. Noi ci fermiamo per un attimo, poi ci ritroviamo, torniamo a parlare di tagli ai comuni e di nuove tasse che potrebbero arrivare per coprire eventuali tagli dei tagli per quanto riguarda tre città metropolitane, e poi ci occuperemo di corruzione. Il PD ha un altro problema, sempre in Campania, questa volta ad Ercolano. Sentiremo il segretario regionale del PD campano. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sarà interrogato lunedì l'uomo che ha compiuto la strage al tribunale. Troppe tensioni e troppa rabbia sulla giustizia, dice il presidente dell'ANM Rodolfo Sabelli in un'assemblea molto partecipata al tribunale di Milano. Al momento nessun rilievo penale sulla sicurezza, dicono gli inquirenti. Qualcuno mette sotto accusa il sistema affidato ai privati. Prima dato il Consiglio dei Ministri sul DEF a questa sera. Intanto Del Rio annuncia via libera 137 piccole opere richieste dai comuni, stanziati 200 milioni. E manette per tangenti, l'ex sindaco, l'intera ex giunta di un comune pugliese. Intanto nuove indagini sulla corruzione in Campania dopo l'arresto del sindaco di Ischia. Indagati anche il sindaco di Ercolano e il suo vice. E siamo a parlare proprio del DEF, del documento di economia e finanza, e delle modifiche che sono arrivate ieri dopo l'incontro con i comuni. Si stava ipotizzando per il 2015 un taglio per le città metropolitane che sarebbe stato però più consistente, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi anche intervistando il presidente dell'ANCI Piero Fassino, che sarebbe stato più consistente per alcune città, in particolare Firenze, Roma e Napoli. Sembra che si sia arrivati ad un accordo. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, partiamo da qua, è così? Allora, partiamo da qua. Ieri si sono incontrati i sindaci e il governo per decidere la ripartizione dei tagli che sono in realtà previsti dalla legge di stabilità 2015. Si sono dati una settimana di tempo per trovare una o più soluzioni in grado di non diminuire i tagli totali a città metropolitane e province, ma insomma alleggerire un po', dare un po' d'ossigeno a queste tre città, ecco, Firenze, Roma e Napoli, che sono le più... Ecco Gianni, vorrei capire proprio questo, perché ne abbiamo parlato anche con Fassino. I tagli effettivamente per queste tre città erano decisamente più consistenti rispetto a quelli delle altre. Sì, per un complesso meccanismo tecnico su cui non annoiamo nessuno, il risultato finale era che per queste città il taglio era circa il 30%, pari al 30% della spesa media registrata negli ultimi anni. Vuol dire che tu da un anno con quell'altro devi ridurre di un terzo il tuo budget. Mentre per altre città, sempre per gli stessi meccanismi di qui sopra, il taglio era 6, 7, 10, 12%. E naturalmente questo tipo di differenze ha anche scaldato gli animi tra i sindaci, che si sono anche tra di loro, diciamo così, mandati un po' di scintille, sì, diciamo sì. Divisi, così siamo un po' più istituzionali. Però rimane il fatto che il conto finale a carico di tutte le città metropolitane e le province deve rimanere quello, cioè 900 milioni più 100 milioni per quelle nelle regioni a statuto speciale. La domanda è: entro mercoledì si riuscirà a trovare una soluzione? Una soluzione. Ecco, tu nel tuo pezzo oggi sul Sole 24 Ore evocavi nuove tasse? Sì, allora non sono io in realtà a evocarle, sono state evocate ieri. C'è questo decreto legislativo del 2011 sulle città metropolitane che prevede l'introduzione di una tassa sui biglietti aerei e sui biglietti delle navi nei porti. Ora, io poi spiegavo che la cosa, diciamo così, al momento è abbastanza improbabile, perché al premier Renzi si possono fare tante critiche, tranne quella di scarso senso dell'opportunità politica. A fine maggio ci sono le elezioni in 7 regioni, oltre 1000 comuni, sono elezioni amministrative, ma è un test importante per il suo PD. Io un Renzi che mette una tassa un mese prima delle elezioni non ce lo vedo. Poi, per carità, nessuno ha la palla di vetro e staremo a vedere. Tutto può succedere, speriamo di no, naturalmente. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore, tutti i dettagli ovviamente li trovate sul Sole 24 Ore in edicola e sul sito del Sole 24 Ore. Vogliamo tornare adesso sul tema della legge contro la tortura, la legge per l'introduzione del reato di tortura. Ne abbiamo parlato parecchio nei giorni scorsi, siamo tornati a parlarne perché perché c'è stata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo a proposito delle violenze alla scuola Diaz da parte dei poliziotti, sentenza che diceva appunto voi la legge sulla tortura non ce l'avete. Bene, vi abbiamo raccontato nel corso della settimana che in realtà sarebbe approdata la Camera nella giornata di giovedì. Ebbene, ieri è stata approvata. Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chi cagiona ad una persona a lui affidata sofferenze fisiche o psichiche, pene che vengono aggravate per quanto riguarda i tutori delle forze dell'ordine. Saluto, buongiorno a Vittorio Ferraresi, capogruppo in Commissione Giustizia del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Con lei vogliamo parlare del perché avete deciso che questa legge per l'introduzione del reato di tortura, che è stata approvata alla Camera e adesso dovrà avere un nuovo vaglio al Senato, perché non vi va bene? Riesce a spiegarcelo in maniera piuttosto semplice? Sì, certo, è stata una decisione abbastanza sofferta quella di votare astenuto invece che punto positivo. In pratica questa legge non solo è una legge inefficace, ovvero contiene delle limitazioni che di fatto renderanno difficile, se non impossibile, provare il reato di tortura, ma è una legge pericolosa perché in questo caso molti degli imputati di tortura che potranno esserci nei prossimi anni potranno arrivare a processo, ma visto che il reato è difficile da accertare subiranno appunto con maggioranza una soluzione. Quindi quali sono Ferraresi gli snodi esatti? Ce ne sono un paio, no? Che sono in particolare quelli che suscitano le vostre critiche e che rendono difficile secondo voi l'applicazione di questa legge. Faccio un esempio, i fatti della Diaz, cui appunto la Corte di Strasburgo ci ha condannato ritenendoli tortura, per esempio non saranno, se succederanno di nuovo, non saranno punibili. Perché? Perché per esempio uno dei tanti incisi contenuti in questa norma dice che il torturato deve essere sottoposto alla vigilanza custodia o l'autorità del torturatore. In questo caso per esempio c'è stata un'operazione di polizia e manifestazioni pubbliche in cui questi requisiti non ricorrevano, perché sono entrati in questa scuola senza nessun motivo e hanno picchiato appunto selvaggiamente, torturato i manifestanti. Quindi in questo caso per esempio non saranno puniti se questi fatti verranno riproposti. Questa è una vera vergogna. Altre sono l'intenzionalità, quindi si dice che praticamente si vuole il piacere, la volontà di infliggere tortura. Se per caso appunto il torturatore si prefigge solo l'ipotesi che queste sofferenze potrebbero essere inflitte, non sarà punito. Questi sono 5-6 incisi che di fatto renderanno difficile. Su quest'ultimo punto, Ferraresi, su quest'ultimo punto sinceramente io non ho capito, ma sì. Da quel che mi risulta la tortura deve essere intenzionale, se no non è tortura. No, perché per esempio se il poliziotto in un arresto legittimo oppure il poliziotto penitenziario in carcere appunto accetta in modo indolente oppure accetta che il rischio che questa tortura si sia perpetrata con sofferenze acute nei confronti dei soggetti torturati, accetta solo il rischio senza il piacere di infliggerla, qui non ci sarà punizione. Capite che questo è molto difficile da provare, soprattutto in operazioni di polizia legittime. In altri casi appunto ci sono stati degli incisi ridondanti che renderanno difficile questa applicazione. Per esempio? Questo è il fatto. Ma per esempio il fatto di aver inserito in maniera assolutamente superflua il fatto che le sofferenze devono essere ulteriori rispetto a misure limitative della libertà, che chiaramente è tortura quando si va oltre misure legittime adottate dalle forze dell'ordine. Questo è già scriminato dal nostro codice penale. Noi non vogliamo dire che appunto misure legittime della polizia rientrerebbero in tortura. Questo già il nostro codice penale scrimina. Se un poliziotto agisce legittimamente nell'esercizio delle sue funzioni, sarà scriminato, non sarà punito. L'inserimento di questi incisi però rende difficile l'accertamento del livello delle sofferenze. E in questo caso 5-6 incisi, non tutti singolarmente, ma tutti insieme dovranno essere tutti provati per provare la tortura. Questo è di fatto impossibile. Grazie Vittorio Ferraresi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Ci prendiamo una pausa adesso, ci ritroviamo subito dopo. Come si diceva, torneremo a parlare di corruzione perché ieri è risultato indagato anche, sono risultati indagati anche il sindaco e il vice sindaco di Ercolano, sempre del Partito Democratico, e quindi sempre in Campania, dove ad Ischia è stato, come sapete, arrestato il sindaco coinvolto in quella inchiesta sulla CPL Concordia che ancora fa parlare di sé. Ne parleremo col segretario del PD della regione Campania per chiedere chiarimenti, per capire anche un attimo se nella regione c'è ancora da fare pulizia all'interno del partito. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il tribunale mi ha rovinato quel posto, l'origine di tutti i miei mali, lo avrebbe detto Claudio Giardiello, l'uomo che ieri ha fatto una strage dentro il tribunale di Milano subito dopo l'arresto avvenuto a Vimercate. Gli investigatori, Giardiello ha anche ribadito di aver agito per vendetta, sarà interrogato lunedì. Intanto alcuni magistrati dicono che troppe tensioni e troppa rabbia si raccolgono sulla giustizia, occorre richiamare tutti ad un diffuso rispetto. Le parole sono del presidente dell'ANM, Rodolfo Sabelli. È stato rimandato a questa sera il Consiglio dei Ministri sul DEF, il documento di economia e finanza. Intanto Del Rio, da neo ministro delle infrastrutture, annuncia via libera 137 piccole opere richieste dai comuni, stanziati 200 milioni. In manette per tangenti l'ex sindaco e l'intera giunta di un comune pugliese, si tratta di Cellino San Marco. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Innanzitutto una correzione per quanto riguarda la notizia che vi abbiamo dato fin dall'inizio di Effetto Giorno, ossia l'udienza per Claudio Giardiello, l'uomo che ha fatto la strage al Tribunale di Milano. Vi abbiamo detto all'inizio della trasmissione che sarebbe stata lunedì, invece arriva notizia adesso, battuta dalle agenzie, che sarà domani mattina in carcere. L'altra notizia appena arrivata, che arriva da, giunge da indiscrezioni dell'agenzia ANSA, i tecnici di Palazzo Chigi del Ministero del Tesoro avrebbero individuato, a quanto si apprende, risorse aggiuntive per circa 1,5 miliardi da destinare a misure previste dal DEF, risorse che a Palazzo Chigi definiscono un bonus, una sorta di tesoretto che in queste ore il governo sta decidendo dove destinare, quindi forse anche a questo è dovuto il rinvio della riunione del Consiglio dei Ministri. Restiamo dunque sui temi economici. Dall'inizio dell'anno 500.000 di italiani ha richiesto le credenziali di accesso online alla dichiarazione dei redditi precompilata, il famoso 730, lo ha comunicato l'Agenzia delle Entrate. I contribuenti in possesso del PIN per accedere sono 2,5 milioni che si sommano ai 4,5 milioni dell'INPS. 7 milioni di italiani sono pronti ad accedere online tra 5 giorni al proprio 730 precompilato. Basterà avere PIN e password chiesti in precedenza e collegarsi al sito dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate. A quel punto il contribuente potrà scaricare, accettare o modificare, infine reinviare da solo la propria dichiarazione dei redditi entro il 7 luglio, oppure potrà affidarsi a un professionista. In questo caso, se il fisco riscontrerà irregolarità, saranno i commercialisti e i CAF stessi a rispondere personalmente, non solo con il pagamento delle sanzioni, ma anche di imposte e interessi che sarebbero a carico del loro cliente. Una norma assolutamente da rivedere. potere, ci spiega Gerardo Longobardi, presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Non vorremmo che nella sperimentazione i commercialisti in particolare facessero la parte delle cavie da laboratorio. Mi auguro veramente che ci sia un po' di ragionevolezza, perché il successo del precompilato è un successo per l'intero paese. Nell'immediato però per i professionisti la soluzione non c'è, se non tutelarsi affidandosi alle compagnie assicurative. In realtà anche questa strada al momento non sembra così facile. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altra notizia appena arrivata e appena battuta dalle agenzie e riguarda la vicenda della Roma Calcio. Si è tanto discusso anche nelle scorse ore di questa decisione del giudice sportivo di chiudere la curva sud per la prossima gara interna, quella con l'Atalanta del 19 aprile. Questo in seguito agli striscioni esposti dai romanisti contro la mamma di Ciro Esposito, il tifoso ucciso la sera della finale di Coppa Italia. La sanzione appunto era stata combinata per questi striscioni. Ebbene, la Roma ha deciso di non presentare ricorso contro la chiusura della curva decisa dal giudice sportivo. Questa la notizia. Nel frattempo continuano ad arrivare ad aggiornamenti da quella che è l'assemblea che si è svolta questa mattina e che in parte è ancora in corso di svolgimento al Tribunale di Milano all'indomani della strage che ha venuta nel palazzo del tribunale. C'è una dichiarazione ancora una volta del presidente dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, Rodolfo Sabelli, a margine appunto della cerimonia per ricordare le vittime. Dice Sabelli: le vittime sono state lasciate sole da un sistema di sicurezza che ha rivelato falle molto gravi. Una discussione sulla sicurezza, dice, deve essere fatta nei palazzi e in tutta Italia. Questa la notizia che arriva in questo momento. Ancora una notizia che riguarda i domiciliari, degli arresti domiciliari per una vicenda di corruzione. Il GIP di Firenze ha concesso i domiciliari a Stefano Perotti, che era finito in carcere il 16 marzo nell'inchiesta sui grandi appalti. La Procura di Firenze ritiene che Perotti, l'ex capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture, Ercole Incalza. L'inchiesta quindi è quella che, come sapete, ha portato in carcere Ercole Incalza. La Procura di Firenze, come si diceva, riteneva Simone Perotti il principale artefice di questo sistema. Nei giorni scorsi anche ad Incalza erano stati concessi i domiciliari. Possiamo tornare adesso al Tribunale di Milano, dove si trova Raffaella Calandra, per tornare a fare un punto tanto su questa assemblea molto partecipata e molto commossa che si è appena conclusa in ricordo delle vittime, quanto per parlare di qualche aggiornamento che c'è dal lato dell'interrogatorio di Giardiello. Raffaella. Allora Simone, partirei da quest'ultimo punto. Allora Giardiello, come dicevamo già prima, sarà interrogato dai magistrati lunedì, ieri davanti al momento davanti ai PM che è basso della facoltà di non rispondere, però come già ricordavamo, quando è stato fermato lui ha detto qualcosa con i carabinieri che l'hanno fermato a Vimercate. Oltre ad aver confermato il suo intento vendicativo, in realtà, e adesso stanno emergendo altri dettagli da questo verbale affidato dai carabinieri alla procura, lui avrebbe detto di essere entrato nel Palazzo di Giustizia di Milano senza tesserino. Allora, in questo momento io non ho personalmente letto ancora il verbale di Giardiello, quindi queste sono, diciamo, delle indiscrezioni che trapelano da fonti di vario genere vicine all'inchiesta. Però questo in qualche modo cambierebbe, per certi versi peggiorerebbe anche la situazione sul fronte sicurezza, perché lui racconterebbe di essere entrato addirittura senza alcun tesserino, sempre da quel lato di via Manara, e poi appunto ha confermato di essere uscito a anche da quello stesso lato, così normalmente insieme alle altre persone, ma per l'uscita è ovvio che non ci siano altri controlli. Allora, ieri c'è stata data notizia, questa l'ho diciamo personalmente verificata, di questo video che inquadrava Giardiello nel momento in cui entrava all'interno del palazzo alle 9:19, che sono il video delle telecamere di sicurezza che sono state poi acquisite nella centralina che c'è all'ingresso di via Freguglia. Ebbene, però in questo video si vede un uomo che sembra Giardiello mostrare un documento, un falso tesserino. Probabilmente non si è al momento, non si ha quel livello di dettaglio da essere così sicuri che si tratti ancora effettivamente di lui. Quindi ci sono ancora una serie di elementi che vanno chiariti sia sul fronte delle indagini fatte appunto dagli investigatori, sia anche rispetto a quanto lui stesso poi vorrà forse direttamente dire ai magistrati lunedì. Quindi questi sono degli elementi che in questo momento emergono da questa vicenda. E c'è questa domanda, sì. Simone, che giustamente già ieri ci facevamo, cioè il discorso di come si è entrato, ma è anche il discorso di, anche se tutto è avvenuto velocemente, di come dal terzo piano lui sia andato al secondo piano in un modo molto mirato, in una stanza anche abbastanza nascosta, quella 250 del giudice Ciampi. Quindi innanzitutto questo conferma, sì, come avesse già studiato tutto il suo intento, ma anche di come in realtà non ci fosse, diciamo, per strada, non avesse incontrato lungo il suo tragitto alcuna forza dell'ordine in grado di fermarlo. Tutto è avvenuto molto velocemente, come anche lo stesso dottor Orsi, il PM che era in aula nel momento dell'udienza, ha raccontato certamente. Allora, Raffaele, io ti ringrazio per questo aggiornamento. Un'ultima precisazione con gli ascoltatori: vi abbiamo annunciato che avremmo sentito Assunta Tartaglione, segretario regionale del PD della Campania, per parlare di questo nuovo caso di indagine, questa indagine di corruzione, per corruzione, che riguarda il sindaco e il vice sindaco di Ercolano. Ebbene, Assunta Tartaglione, segretario del PD della Campania, nonostante ci avesse detto che ci sarebbe stata, non ci ha risposto al telefono. Traffico.